Così disse il Signore: va e compra una brocca di argilla. Prendi con te alcuni anziani del popolo e alcuni anziani dei sacerdoti ed esci verso la valle Ben Innon, che è all'ingresso della porta del vasellame, e grida ivi le parole che io ti dirò. Dirai: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: eccomi, sto per addurre una calamità contro questo luogo che a chiunque l'ascolterà vibreranno le orecchie. Infatti essi hanno abbandonato me ed hanno rigettato questo luogo e vi hanno offerto incenso ad altri dei che non avevano conosciuto né essi né i loro padri né i re di Giuda, e hanno riempito questo luogo di sangue innocente. Hanno costruito le alture di Baal per bruciare i loro figli con il fuoco, olocausti a Baal, cosa che non avevo ordinato e né mi era mai venuta in mente. Perciò, ecco, vengono giorni, oracolo del Signore, in cui non si chiamerà più questo luogo Tophet e valle Ben Innon, bensì valle del massacro. Io ho svuotato il consiglio di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo, e li farò cadere di spada di fronte ai loro nemici e nelle mani di chi cerca la loro vita, e darò i loro cadaveri in pasto ai volatili del cielo e alle bestie del paese. Ridurrò poi questa città una desolazione ed uno scherno. Chiunque passerà per essa si stupirà e fischierà per tutte le sue ferite. Li nutrirò con la carne dei loro figli e con la carne delle loro figlie, e ognuno mangerà la carne del proprio amico durante l'assedio e le strettezze cui li ridurranno i loro nemici e chi cerca la loro vita. Tu spezzerai dunque la brocca dinanzi agli uomini che verranno con te. Poi dirai loro: così dice il Signore degli eserciti. Così frantumerò questo popolo e questa città, come si frantuma il vaso del vasaio, sicché non si possa più riparare. Allora si seppellirà in Tophet, perché non ci sarà altro spazio per seppellire. Così io tratterò questo luogo, oracolo del Signore, e i suoi abitanti, quando ridurrò questa città come Tophet. Allora le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure come il luogo di Tophet. Tutte le case dove si offriva incenso sulle terrazze a tutto l'esercito del cielo e si versavano libagioni ad altri dei. Geremia poi ritornò dalla porta dove l'aveva inviato il Signore a profetizzare e si fermò nell'atrio della casa del Signore e disse a tutto il popolo: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: eccomi, sto per addurre contro questa città e contro tutte le sue città ogni sventura che ho pronunciato contro di esse, poiché hanno indurito la loro cervice, non volendo ascoltare la mia parola.